si è partito, va, ma poi non dice niente, eh. Io beh. Ascolti così, non ho la televisione corta, stanno guardando altro, e io già faccio la mia. Allora, mandi la roccia. Ehi, ahia, mi ha fatto, mangiato qualche cucina, vuoi essere leggeri una volta. Yes. 7 ore sia proprio, lo devo rifornire, esattamente. Devo ritirare i biglietti. E quindi è scoperto. È scoperto. Se quello apre presto, passo, ma lo prendo il caffè, se no me lo piglio per l'ora direttamente. Perché se no faccio tardi. Faccio tardi. 7:30 apre la biglietteria. Però me lo sanno già, io passo e mi ritiro il biglietto direttamente. Sono toccato a mezz'ora in chimica, se mi andrà via, anche se guardi di mezz'ora. Come arrivi loro sanno già, già hanno biglietto, già pronto. Sì, sì, ci hanno già ci abbiamo il permesso, no? Sono già avvisati, capito? Lo sanno chi entra e chi esce, non è che non lo sanno. Quelli che ci hanno i mezzi devono essere tutti segnati, se succede qualcosa all'interno, nel mezzo ce l'aveva lui, quindi perciò sono già avvisati da venerdì, che lunedì entra la macchina nostra e c'è il nome e cognome di chi entra, capito? Quindi appena arrivo c'è il biglietto già pronto. Cavaroccio, va bene, si affronta anche questa settimana entrante, piano piano. E per forza bisogna affrontarla, bisogna affrontarla per forza, con la speranza che non ci siano problemi, che sia tutto. Otto se n'è andato, mi sta guida, e poi siamo a settembre. Ciccia. Sì, adesso ormai il turismo sta tutto rientrando perché ci sarà molto meno gente e abbiamo più evidente. Adesso guardo un pezzo di sconto, poi c'è mia figlia, ha fatto c'è un approccio, ha fatto l'aria sola. E niente, andiamo a cercare te e poi tu il dito e metti go, guardi io che chi viaggi la mia bibicchia, tu bisogna dormire. Ehi, no, abbiamo sentito la persona stava tossendo, si sentiva anche l'apparato, infatti non stavo per dire che appagava la risolta, ma vedi, guarda, è buona la risolta, c'è una cosa che stampa, diciamo, dai. Ho deciso sempre di zia, ogni giorno che c'era quel maestro a lotta, ti portati qualche giubbottino, se no, invece esci, rientra l'una dei minuti, umidità, e quindi la tutti in casa. Poi lì dopo lavora, c'è proprio una relazione condizionale accesa, e quindi a volte ti frega. Va bene, godi, dai, che anche io mi voglio guardare un pezzo di secondo tempo, sempre meglio, non mi vale la bocca la fiocca prima. E niente, e ce la riascoltiamo domani se coincide, sempre che non ci siano sopra sempre qualche cosa di imprevisto che mi ha dato, bisogna sempre tirare con gli imprevisti. Bene, vera. Non credo comunque perché c'ho già il programma quello che devo fare, non che non ci sia qualche problema in giornata, quindi me ne devo trattenere, ma sarà molto difficile. Il programma è già fatto, dovrei fare la giornata domani mattina, e quindi per scaricarlo prima del buono, e poi ho dei controlli, delle visure, delle cose da fare assieme a questo assistente che c'è del parco. E all'assessore del comune, basta, qualche cosa da fare, non ne ho, ti ripeto, salvo complicazioni, che i grossi esce sempre all'ultimo, no? Quindi, vabbè, ok, ecco là, prendiamo la partita, ci sentiamo domani, stiamo bene, buon lavoro, buon tutto e saluti a casa, ok? Riabbasso il volume, rimango qua in quel rixante, metto se no abbasso il volume, rimango qua in quella X. E dopo più tardi spengo tutto. Ciao, anche la domani. Ciao Tony, buon tutto anche per te, buon trabocco per domani. Saluto la tua guerra familiare e ce la riascoltiamo tutta domani se coincide. Ciao Pagliappa Godi. Ciao ciao, buonanotte. Ciao Matteo, ciao ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao.